la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16:08 primi e un secondo in questo momento. Benvenuti e grazie all'ascolto in diretto in podcast della versione di Oscar, come sempre. Milano oggi un po' così così, grigiastra finalmente, infatti le signore battono i denti, protestano. Anche io ce l'ho con la mia regista qui, che infatti è lì che sta battendo i denti, ma solo perché non mi sopporta ovviamente. Sto scherzando, grazie, se no la messa in onda, se non ci foste voi, non ci sarebbe. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un argomento che sui giornali in questi giorni hanno visto soprattutto i genovesi e i liguri, ma che in realtà riguarda l'economia nazionale e in primis tutti coloro che abitano, risiedono e hanno attività economiche nei, ohimè, porti italiani. Dico ohimè perché tutti tendiamo a dimenticare che i porti italiani, io me ne occupo un paio di volte l'anno, molti di voi protestano dicendo ma chi se ne frega dei porti italiani? Esatto, errore, naturalmente questa è la perfetta fotografia, la reazione di molti di voi a un problema colpevolmente trascurato, perché naturalmente questo paese che segnerà in questo 2017, ne siamo tutti molto felici, l'ennesimo record delle sue esportazioni. Ebbene, quasi il 60% delle merci italiane passa, quelle che entrano e quelle che escono, passa per i porti, quindi sono, dovrebbero essere concepiti, vissuti, interpretati, incentivati, coadiuvati in una logica di enorme concorrenza internazionale sui prezzi, sulla tipologia degli scambi, eccetera, eccetera, un'enorme concorrenza che c'è all'interno del Mediterraneo, verso la Spagna e paesi nordafricani, verso gli investimenti cinesi. I cinesi in questi anni hanno investito più di 4 miliardi di euro in 8 porti mediterranei, guarda caso, perché loro hanno la vista lunga. Ecco, allora siamo esattamente a un anno e poco più dal decreto attuativo della riforma dei porti italiani, approntata e varata dopo decenni di dialoghi dal ministro Delrio, ma i cittadini liguri e genovesi avranno visto in questi giorni, anche stamattina sul Secolo XIX, che animarsi una polemica, una richiesta, a dire la verità, una richiesta secondo me motivata, a dirvi la verità. Prima di arrivare alla richiesta, perché iniziamo avendo come ospite il protagonista di questa richiesta, che ha avuto dal ministro Delrio una risposta negativa, diciamolo subito, perché il ministro ha detto a un anno la riforma non mi metto di nuovo a rimetterci mano. Ma prima di arrivare a quello, per chi non se lo ricordasse, qualche breve indicazione in che cosa è consistita la riforma. Voi sapete che il nostro paese ha purtroppo una dannazione, cioè migliaia di chilometri di costa, quindi molti, per certi versi troppi porti, pensate che solo quelli turistici sono più di una sessantina, dico dei maggiori, e quindi coordinarli attraverso un'azione compiuta, perché quelli sono una parte essenziale del nostro turismo nautico, li abbiamo invece devastati negli ultimi anni. Ma al di là di questo, abbiamo un problema di decine di porti. Questa riforma si pose un triplice problema: quello del riordino complessivo della loro tra virgolette importanza, e quindi individuando quindi 15 autorità portuali core, per così dire, quelle fondamentali, quelle prioritarie, e indicandone quindi i bacini di competenza. Secondo punto della riforma fu snellire molto i consigli di amministrazione, quindi la governance, cioè siamo passati per i porti principali a quasi 350 amministratori a una settantina, e con l'indicazione di far di preferire per la guida operativa e per i presidenti dei manager competenti, insomma, e non tra virgolette politici suonati. E la terza cosa ovviamente era tentare di rendere prioritari alcuni collegamenti intermodali che dovrebbero essere, per così dire, il reticolo nervoso che consente poi ai porti di mettersi in collegamento con destinazioni più lontane in Europa, cioè di battere la concorrenza nord europea, visto che dall'Asia si continua a preferire quella, naturalmente con giorni di navigazione in più. Ma perché? Perché i costi e l'efficienza poi per accedere al mercato centro europeo risultano tradizionalmente più vantaggiosi andando in Olanda e sulla costa del Mare del Nord, piuttosto che nel nostro Mediterraneo, che invece è più vicino. Queste le tre essenziali priorità. Io quando me ne occupai mi battei per devolvere alle autorità portuali, così ridefinite sommariamente come l'ho sintetizzata, una quota di risorse che mi sembrava necessaria, perché per le opere su cui siamo rimasti indietro, sto parlando opere infrastrutturali necessarie per i porti, Di Ghéforane, il dragaggio, visto che siamo in un mondo nel quale il flusso dei container è andato sempre di più a meganavi che hanno bisogno di fondali profondi, la realizzazione delle opere infrastrutturali intermodali, che invece è stata delegata integralmente ovviamente a Ferrovie dello Stato, e io su questo non sono molto d'accordo, nella mia visione avrebbe avuto bisogno di una quota automatica, autodevoluta del flusso fiscale che si realizza attraverso i porti, demandata direttamente sul territorio agli investimenti nei porti stessi, cioè messa come una vote ordinaria di finanziamento per gli investimenti portuali. Una quota significativa, secondo me, sarebbe stata la soluzione sia del problema altrimenti delle scarse risorse, sia della dannata faccenda che bisogna vivere di trasferimenti, ma avrebbe avuto la possibilità di moltiplicare la presenza di grandi terminalisti europei, che ovviamente sono molto attenti al vantaggio comparato di chi offre soluzioni di questo tipo. Ecco, da questo punto di vista sicuramente la riforma, per via dell'occhiuta vigilanza del Ministero dell'Economia sul non perdere controllo delle risorse, dal mio punto di vista risultò insoddisfacente. Ma la questione è che c'è chi ha posto in maniera esplicita di nuovo al governo e al ministro Del Rio, che è l'autore di questa riforma, un problema, e ha detto: no, qui bisogna rimettere mano a questa opera, che è un'opera ancora lungi dall'essere compiuta, perché il tavolo nazionale in cui dovevano essere poi scelte le priorità non c'è ancora, e qui si parla di aspettare le prossime elezioni, se ne passa ancora chissà quanto tempo. Senza di quello, le priorità di questa nuova architettura di governance non riescono a tradursi in atti concreti. Ma a sollevare la questione, e lo ringrazio di essersi reso disponibile per stare con noi e spiegarcela, è stata anche in questi ultimi giorni, ieri c'è stato un convegno proprio a Genova in cui era presente il ministro Del Rio, che gli ha subito risposto, è stato il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, che naturalmente parlava, per quello che riguarda l'autorità portuale genovese, quindi stiamo parlando dell'Alto Tirreno, ma ha detto: caro ministro, ecco, sentiamo direttamente dal presidente della regione Liguria che cosa gli ha detto. Toti, grazie e buon pomeriggio. Ah, è caduta la linea di Toti, naturalmente. Benissimo, allora mentre lo richiamiamo ne approfitto per salutare un secondo protagonista, ne avremo tre, e poi un giornalista che si occupa di queste vicende, e lo abbiamo qui con noi in studio. Lo ringrazio di essere qui in studio a Milano, perché tra due settimane farà una delle due assemblee annuali della propria categoria. È una categoria che identifica e rappresenta una delle figure protagoniste della movimentazione, quindi del successo o dell'insuccesso, ma anche dei problemi, dei costi e della concorrenza all'interno di ogni bacino portuale, cioè quella di agenti marittimi, e l'associazione si chiama naturalmente Federagenti, ed è con noi il presidente Gian Enzo Duci. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Lei tra l'altro i problemi di Genova li conosce bene, perché si è occupato in prima persona del porto. Sì, sono stato presidente dell'associazione genovese e membro del comitato portuale, quindi quegli strani organi che mettevano assieme tutti i soggetti privati che si confrontavano direttamente col territorio e con il sistema pubblico nel definire le azioni dell'autorità portuale. Allora, dovrebbe essere stato ripristinato il collegamento con Giovanni Toti, il presidente della regione Liguria. Ripeto, grazie di essere con noi. Che cos'è che ha detto? Che cos'è che ha detto al ministro, che il ministro ha detto non è d'accordo? Perché bisogna rimettere mano alla riforma? Ma bisogna mettere mano alla riforma, secondo me, che è una riforma che comunque ha fatto alcuni passi avanti rispetto alla famosa legge 84-94, che ormai era vecchiotta, ma è una riforma che per certi aspetti è positiva, perché ad esempio sull'accorpamento di talune autorità portuali in un sistema portuale unico, vedi l'autorità portuale nostra della Liguria dell'Est, è stata positiva. Dall'altro, in qualche modo, la centralizzazione o l'ipercentralizzazione, che credo sia una malattia di questa legislatura e di questo governo, un po' in tutte le riforme che hanno fatto, è una cosa che ingessa le autorità portuali, le scollega dalle autorità locali e non gli dà quella dinamicità che hanno taluni porti del nord Europa molto legati alla loro municipalità. Vedo ad esempio il porto d'Amburgo, che è certamente tra quelli che funziona meglio e su cui il rapporto con la municipalità della città di Amburgo è molto stretta. Ad esempio, lunedì si discuterà nella legge nella delega sui porti la presenza o meno dei sindaci all'interno dei comitati di gestione portuali, io credo che sia quanto mai opportuna la loro presenza, mentre al governo mi sembra che prevalga una linea totalmente diversa. Insomma, io avrei fatto qualche cosa di diverso. Se sull'accorpamento territoriale di alcuni porti sono d'accordo, sulla centralizzazione da parte di Roma di tutte le decisioni di investimento, di tutte le politiche dei porti, sono molto meno d'accordo. Credo che regioni e comuni, soprattutto ad esempio Genova, che è una grande città che con il porto ha un rapporto quasi simbiotico, scusate il bisticcio di parole, dovrebbero essere molto più coinvolte, anche perché quando usciamo dai porti poi si entra nei comuni, si entra nelle regioni. I porti da soli sono degli specchi d'acqua molto importanti, ma poi devono avere dopo le ferrovie, devono avere i parcheggi, devono avere i varchi doganali gestiti in un certo modo. Insomma, penso che se si fosse proceduto poi a mettere in concorrenza le autorità portuali, anche l'utilizzo dei proventi delle autorità stesse portuali sulla base della concorrenza, ovvero del maggiore gettito che sono capaci di produrre per competitività, avremmo probabilmente sistemato e dato una migliore allocazione alle risorse, che non con una sorta di economia pianificata che purtroppo in Italia, si sa, spesso risponde più a criteri politici che non a criteri di utilità. Su questa questione delle risorse, ripeto, io ero tra quelli che hanno combattuto la battaglia per quote fisse più elevate in ragione dei proventi fiscali derivanti appunto dalla movimentazione nei porti, e nella mia opinione doveva costituire una colonna portante dell'autofinanziamento del bilancio, non tanto parte corrente, ma sicuramente degli investimenti delle opere. Ma anche solo dell'extra gettito, ecco. Giannino, nel senso che senza toccare, io capisco che l'IVA e le accise derivanti dalla portualità ligure, che sono oltre 6 miliardi di euro, siano una parte importante del bilancio dello Stato nella sua fiscalità generale, ma gli extra gettiti che un'autorità portuale e la sua organizzazione intorno, quindi gli enti locali, sanno procurare un porto per la propria competitività, per la competitività, esatto, delle imprese che ci lavorano e quant'altro. Possiamo decidere come destinarle tutti insieme o dobbiamo far capo a un comitato che esiste solamente a Roma e che dal Ministero decide se investire su Taranto, su Mestre, su Venezia o su Genova senza tenere conto delle esigenze locali o anche semplicemente delle esigenze del mercato? Perché talvolta, io lo capisco, la politica è portata a perequare, diciamo, situazioni di difficoltà di alcune città, vedi ad esempio Taranto, che certamente non vive un momento bello della sua vita, magari procurando investimenti che però poi nel medio e lungo periodo non sono utili, perché un porto di Taranto è molto decentrato rispetto ai grandi mercati, rispetto a Genova, rispetto a Trieste. È la geografia, non è una questione, sì, sì, di giustizia o di ingiustizia. Ecco, tutto questo perché lei ha detto, cosa che ha un po' storto ulteriormente il ministro Delrio, chiedo di partecipare su questo tema al confronto che Lombardia e Veneto, dopo i loro referendum, hanno aperto e hanno pieno diritto di avere, naturalmente secondo la Costituzione vigente, con il governo centrale. Perché? Perché io credo che regionalismo e una sorta di autonomia e di federalismo tornino in agenda della politica dopo la bocciatura del referendum ipercentralista di Renzi del 4 dicembre scorso, al di là di come uno la pensasse al momento. Oggi torniamo a ragionare di autonomie locali, c'è stato due referendum importanti, la Liguria ha le materie del trasporto, della logistica, della portualità e della aeroportualità sono materie concorrenti di legislazione per la Costituzione, esiste un procedimento che è 116 per chiedere un'autonomia differenziata e la Liguria, credo ospitando il primo sistema portuale d'Italia e nel complesso uno dei primi sistemi portuali del Mediterraneo, perché parliamo di Spezia, Genova, Savona e il nuovo scalo di Vado in costruzione, quindi parliamo di una portualità molto importante per il sistema paese, vorremmo avere la possibilità di dire la nostra, sia sui piani di sviluppo, sia sull'utilizzo dei singoli scali, sia sulla priorità degli investimenti, sia sulla rapidità con cui si portano avanti i cantieri. Quindi molto banalmente ho detto, chiederemo, come hanno chiesto Lombardia e Emilia, di poter aprire un confronto sul governo su questo specifico tema. Siccome esistono già dei tavoli aperti, io penso che sarebbe opportuno ragionarne tutte insieme, anzi io penso che sarebbe ancora più opportuno che ne ragionasse il Parlamento nella prossima legislatura con una riforma costituzionale, perché non vorrei morire con il lodo per cui, fallite le riforme Renzi, non si possono più fare riforme in questo paese. Si possono fare riforme diverse che magari accentuino quei caratteri di autonomia e di e di regionalismo che gli italiani hanno piuttosto cari, insomma. Allora, grazie al ministro per aver spiegato la posizione della Regione Liguria, che naturalmente avrà a questo punto i suoi sviluppi. Vedremo poi cosa succede al governo nazionale, visto non sappiamo nemmeno quando si vota ancora, non sappiamo nulla, a dire la verità. Vedremo, lo si potrà capire solo nelle ultimissime fasi della legge di bilancio, quindi alla fine di dicembre, per capire il Quirinale verso che data va. Beh, per capire solo per attività residua di questo governo, anche rispetto a questo punto, io temo molto che appunto il tavolo nazionale previsto dalla riforma non vedrà la luce ancora per molto molto molto tempo, e questo è un problema, perché senza di quello la riforma resta nella governance ma resta priva del luogo che era stato un po' concepito per fare le scelte fondamentali. Non è così, Duci? Ma quello è un tavolo in cui i presidenti delle autorità di sistema portuale nazionale si devono confrontare con le imprese. Questo confronto in passato avveniva a livello locale e chiaramente io capisco anche il senso della riforma. Le storture che aveva portato questo sistema, per cui a distanza di 50 km i porti moltiplicavano gli investimenti identici in maniera assolutamente... Avevano un effetto negativo. Priva di contatti con il mercato, perché si creava una sovracapacità insensata che si faceva con risorse pubbliche, quindi... Per certi versi un qualche confronto centrale su quali siano le risorse, gli investimenti prioritari e dove debbano essere allocate le risorse ha un senso, però doveva essere questo confronto a livello locale sostituito da un confronto nazionale. Questo confronto nazionale al momento non è ancora partito, quindi le categorie che prima facevano parte appunto dei board locali non sono ancora state convocate a livello nazionale, e questo un pochino sta creando un po' d'ansia, perché è chiaro che è un anno in cui il timoniere decide senza confrontarsi con il resto dell'equipaggio. Quindi, insomma, il rilievo che Totti faceva, secondo lei, sul centralismo ha un fondamento? Ha alcuni fondamenti. Su alcune cose è stato estremamente utile questo centralismo, perché ha consentito al mercato italiano dei porti, che proprio per come diceva lei prima è estremamente frammentato per la nostra configurazione orogeografica, ci aveva messo fuori dai mercati internazionali. Cioè il più grande porto italiano non poteva andare a dialogare con un grande porto cinese, perché era una virgola qualcosa dei suoi traffici. Il sistema italiano assieme, guidato dal ministro Del Rio, è andato in Cina e, portandosi dietro i presidenti dell'autorità sistema portuali di Genova e Trieste, ha rimesso l'Italia sulla mappa della portualità internazionale. Quindi questo è sicuramente... Quindi, cari ascoltatori, come vedete non è che si disconoscono meriti oggettivi, stiamo facendo un ragionamento in cui, riconosciuti i meriti oggettivi, il punto però è anche vedere di non trascurare il fatto che va bene noi politici trombati, altra cosa è avere una specie di camera iperbarica da cui poi gli indirizzi locali rimbalzano, questo è il punto. E quello che sembra essere oggi un problema, come ha giustamente anche indicato il presidente Toti, che l'ha già fatto ministro, quindi non ho capito se questo è un auspicio per le prossime elezioni. Il problema che si è venuto a creare con il venir meno del ruolo diretto dei sindaci e dei presidenti delle regioni nei comitati di gestione delle autorità di sistema portuale sta diventando un problema. Nei comitati portuali, è vero, c'erano anche forse soggetti in numero eccessivo. Sì, ammettiamolo, erano troppi. Non che si sia, eliminandoli si siano ridotti i costi, perché il gettone era simbolico. No, ma non è così, è un'altra questione, diciamo, efficienza. E c'era sicuramente quindi una efficienza, logica. Potere di veto, eccetera. Una logica anche di filosofia, cioè il pubblico deve fare il pubblico, il privato deve fare il privato. Quindi forse è anche giusto che oggi il tavolo di partenariato sia un tavolo consultivo, quello con i soggetti, sono i soggetti economici. Però il problema qual è? Che prima noi avevamo i comuni e regioni che erano presenti direttamente in comitato portuale e quindi avevano la possibilità di spendere direttamente la parola del comune, certo, della regione. Oggi, con questo sistema del nominato dal sindaco, nominato dal presidente della regione, noi abbiamo un sostanziale scollamento tra ovviamente per i problemi, pensiamo solo alla pianificazione urbana, dei piani regolatori che sono necessari per poter fare le opere infrastrutturali intermodali, non è proprio una cosa da ridere visti i tempi italiani. E soprattutto non si è messo in moto neanche un meccanismo sulla base del quale, cioè, avvengono nuove elezioni, cambia la giunta del comune, cambia il colore della regione, non c'è l'obbligo di dimettersi da parte del soggetto che è stato nominato. In passato il presidente della regione, il sindaco partecipavano direttamente o delegavano un soggetto di volta in volta, che poteva quindi essere un assessore una volta, un esperto dirigente del comune su un tema particolare, e quindi questo dava tutto sommato una velocità maggiore nell'ambito della presa delle decisioni e non creava conflitti che potevano poi avere strascichi post momento di presa della decisione. E questo sicuramente, a distanza di un anno, possiamo dire in maniera abbastanza ormai chiara che probabilmente è stato un errore della riforma eliminare questa presenza diretta, proprio perché laddove i porti esistono, incidono in maniera così forte sul nostro sistema urbano. Noi non abbiamo porti come in altre aree del mondo, con il porto completamente scollegato dalla città. Marsiglia, faccio un esempio. Certo. Il nuovo porto di Marsiglia, la città non lo vede. Nei porti italiani, a Genova, a Trieste, a Livorno, ad Ancona, a Napoli, il porto è nella città e per la città, ad oggi vissuto esclusivamente come un vincolo e un onere, non un onore e una via di, in qualche modo, anche interesse economico diretto per la città. Su questo, secondo me, c'è modo ancora di lavorare. C'è ancora modo di lavorare. E anche con noi collegato telefonicamente Bruno Dardane, collega giornalista, è stato anche al Sole per molti anni a occuparsi di queste cose e continua a farlo nella sua professione giornalistica. Grazie di essere con noi, Bruno. La domanda che ti faccio è: nelle 15, perché poi Toti ha citato il problema di Taranto. Taranto è facilmente comprensibile anche a chi non si occupa di economia portuale, tanto alle prese con una crisi di anni e anni, si identifica in Ilva, ma naturalmente quello era un porto di servizio, il più grande impianto a ciclo continuo di acciaio europeo ed era oltretutto il terzo gruppo europeo a gestirlo, il quindicesimo mondiale, perché questo era il gruppo Riva che abbiamo fatto esplodere, che è esploso, e ovviamente la crisi è collegata a quello. Ma non è solo la crisi di Taranto il problema che poi sta lì a macerare in attesa di queste scelte, perché ce ne sono altri porti che insomma vivono praticamente o di decisioni non prese o molto complicate, come Venezia, o di una crisi di modello, come il caso di Gioia Tauro, che è la crisi del modello tradizionale di transshipment, su cui per tanti anni si è immaginato che chissà che futuro avesse, e poi quel modello proprio è entrato proprio in crisi radicale, no? Dardani. Ma guarda, Oscar, grazie per questa introduzione. Io ho fatto 25 anni di Pagina Marittima del Sole 24 Ore, adesso collaboro anche per riviste estere, per una rivista svizzera che si chiama Swiss Money, proprio anche su queste tematiche. Quello che mi fa un po' impressione, a parte che il caso Taranto è un caso emblematico, perché è stato il primo porto italiano dove è sbarcato un grande operatore terminalista dell'Estremo Oriente che si chiamava Evergreen, e che ha lasciato questo porto perché tutte le promesse e gli impegni assunti dallo Stato per questo porto sono andati disattesi, quindi ha riconsegnato le chiavi dell'appartamento sostanzialmente all'autorità pubblica. Quindi Taranto è un caso emblematico sotto tanti punti di vista. Quello che mi spaventa un pochino adesso è che quando si parla nel nostro paese di grande pianificazione, poi la grande pianificazione molto spesso in passato è finita in grandi investimenti a pioggia. Cioè la pianificazione, poi se siamo sotto elezioni, si può immaginare il rischio enorme, in assenza di un soggetto regolatore effettivo, ridacchiato e giustificazione che dice facciamo delle tasse di scopo. Io so che questa è una battaglia che tu hai sempre fatto, ma se i porti producono gettito aggiuntivo, cioè vuol dire portano più merci e da queste merci deriva gettito IVA all'importazione, dazi e accise, beh, è anche, credo, un diritto storico di mercato, non un diritto politico, di utilizzare questo reddito aggiuntivo per migliorare il porto e portare ulteriori merci. Ora, io in questo periodo, è vero, ognuno ha un ruolo diverso, ma forse sono diventato un po' cinico con gli anni, ma ho visto una elargizione di finanziamenti un po' a porti in giro, con scarsissime motivazioni, e questa funzione regolatoria statalista, centralista, mi sembra in Italia difficilmente attuabile. Forse in termini pratici sarebbe stato molto più funzionante pensare a una parte del gettito fiscale speso in loco con una parte del gettito che era a quel punto una diretta misurazione della capacità di far meglio ciascuno nei confronti degli altri. Esatto. Nel medio periodo avrebbe anche avuto l'effetto di indurre pressoché automaticamente per convergenza specializzazioni, perché ovviamente questo è il problema fondamentale, che dipendono dai collegamenti, dal tipo di fondale che hai, dai testimonisti che vi operano e così via. Quindi a me, per me aveva una duplice finalità, oltre che maggiore autonomia finanziaria, era quella, come evidente, di scatenare un processo virtuoso che avrebbe sicuramente messo ancora più ventre a terra i privati che stanno nei diversi porti. Quindi per me era una visione, però viviamo in un sistema di finanza pubblica centralizzata e io credo che questo sia un profondo errore. Adesso abbiamo le notizie sulla borsa, un po' di pubblicità e poi torniamo sempre con Bruno Dardani, che avete sentito, Gianni Zulucci, che resta con noi in studio, e ci colleghiamo con il presidente dell'autorità del sistema portuale di Palermo, Pasqualino Monti, per vedere che cosa ne pensa lui di questa richiesta. Rimettiamo mano alla riforma, a cui il ministro Delrio dice no, no, no. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Allora, eccoci qua, tornati per fare la nostra riflessione che facciamo almeno una volta l'anno sul sistema dei porti italiani. È un anno della riforma del Rio, riconosciuti i meriti dell'accorpamento, della semplificazione, della governance, riconosciuti senza dubbio però i problemi, perché per il momento le scelte prioritarie poi anche nell'ambito di queste 15 autorità ampie di portuali, la cui geografia è una geografia che risponde più alla politica che a esigenze reali, perché eravamo nella pausa con Gianni Zulucci, dicevamo, ma insomma, tre autorità in Sicilia che non fa nemmeno il traffico di Savona. Ecco, di Savona, capite? Cioè, commenta da solo, capite che il problema è politico nella definizione di questo. Però detto tutto questo, problema posto da Giovanni Toti, e il problema è che vediamo se è condiviso anche da altri. Si è collegato con noi, e lo ringrazio di essere reso disponibile, il presidente dell'autorità del sistema portuale di Palermo, Pasqualino Monti. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, presidente. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, è anche lei dell'idea che la riforma va bene così com'è, come dice Delrio, oppure che bisogna rimetterci un secondo mano, e perché nel caso? Guardi, io ci avrei messo mano anche prima, cioè la riforma, bisogna essere onesti, ha dato la possibilità di fare dei grandi passi avanti nei termini che lei diceva prima, di semplificazione, di governance, di accorpamento e quant'altro. Ma certamente nel momento e nella fase nella quale si è andato alla redazione per andare incontro al mercato e alle esigenze del mercato del piano strategico nazionale della portualità e della logistica, che era il piano sul quale poi si costruiva la riforma dei porti, è intervenuta la burocrazia, come avviene di solito nel nostro paese, sono intervenuti i campanili, è intervenuta un po' la politica, è intervenuto il Ministero della Funzione Pubblica, il MEF, che hanno fatto diventare una norma che dovrebbe essere quella che rende più snella l'interfaccia con il mercato, sia la prima industria del paese che è rappresentata dai nostri porti, l'ha fatta diventare un altro, diciamo così, dei tanti ministeri che oggi abbiamo. Questo forse è un po' la pecca. Quando ho sentito il presidente Toti prima parlare dell'autonomia finanziaria, io ricordo a tutti che nel momento in cui ero presidente di Assoporti, presidente dell'Associazione dei Porti Italiani, il mio cavallo di battaglia fu proprio quella di dire, esatto, signori miei, usciamo dal loop della burocrazia, il processo, la perdita di un processo, qualunque esso sia, per un funzionario ministeriale significa perdita di potere, noi significa perdita di quote di mercato. Per far questo dobbiamo concedere autonomia ai porti, perché con quello il rapporto costi-benefici lo otteniamo solo nel momento in cui ciascun porto, da quello che guadagna, da quello che introita, fa gli investimenti. Chiaramente governati anche dal centro, perché per carità di Dio avere anche un sistema che ci consente, laddove nella parte del paese c'è più ricchezza, di costruire quelle infrastrutture che realmente servono al mercato, magari in un'ottica di regia, può andar bene, però da qui a dire o a trasformare la riforma dei porti e dire no, allora siamo all'interno dell'impiego pubblico, le autorità portuali, io non so se lei ha mai avuto il piacere di partecipare ad una conferenza di servizi, forse è il caso che qualcuno inizi, esatto, a parlare di come si svolgono le conferenze dei servizi, a praticare questi luoghi fondamentali che spiegano poi tanti problemi italiani. È questo, cioè i problemi reali, il porto, economia reale, il presidente del porto è la prima interfaccia con il mercato, ma come si fa a pensare di togliere gli strumenti di promozione, di realizzazione delle infrastrutture, di gestione delle risorse che porta in porto? Qui siamo al livello che io, se devo andare in America, mi devo chiedere, oddio, ma come, forse non devo chiedere al ministero il permesso per andarci. E ho la necessità di parlare con il mio interlocutore, che è l'armatore delle crociere, uno dei più importanti al mondo. Se continuiamo a far parlare coloro che sono abituati solo a scrivere su carta, anziché ascoltare coloro che sul campo hanno dimostrato di saper fare, questo paese lentamente andrà sempre più giù. Io sono dell'avviso che oggi ci sia la necessità di ascoltare coloro che hanno dimostrato sul campo di saper fare e di saper fare bene. Io ho realizzato un porto, un piccolo porto, l'ho portato a diventare il primo porto del Mediterraneo. Non è che sto vantando, pure mi sto dicendo quanto è bravo Pasqualino, però nel momento in cui sedevo a quel tavolo ho detto, signori miei, guardate, ragioniamo, non ragionate come ragionate all'interno del Ministero, ragioniamo con il mercato, quindi dobbiamo avere gli strumenti per farlo. Forse da una parte entrata, dall'altra e dall'altra uscita. Senta, Ducci, prima diceva, a proposito, esatto, con un esatto spirito di coerenza e continuità con quello che diceva il nostro ascoltatore, il presidente dell'autorità di sistema portuale di Palermo, che se per ipotesi, diceva, per affilare le armi nella competizione, cioè per tentare di battere il Nord Europa, per offrire costi e tempi inferiori rispetto a quelli del porto Nord Europa, per alimentare l'area centro-meridionale della Germania, per capirci, e la Svizzera, se per caso il porto di Genova, posto che gli servirebbe moltissimo a questa finalità, un interporto, che ne so, a Basilea, volesse come attività esplorativa, preventiva, necessaria per farlo assumere due che parlano e stanno lì come operatori per interfacciarsi, non potrebbe. No, e questo è quello che diceva il presidente Monti. Noi oggi non abbiamo messo i porti italiani che devono traguardare la logistica nazionale all'estero, cioè noi abbiamo la possibilità di essere un polo logistico che serve dei mercati che non sono solo quello italiano. Ad oggi noi, questo è il nostro mercato, noi abbiamo un sistema portuale italiano che serve l'Italia e un po' di traffici italiani lo perdiamo per i porti del Nord Europa. I porti, l'area geografica, l'area contendibile della Svizzera, ma la Svizzera che produce, quindi la Svizzera tedesca, e il sud della Germania, da un punto di vista geografico, sono un potenziale nostro mercato. Anche ma se quel mercato lo sono stato tradizionalmente del Nord Europa. Sì, ma quel mercato va presidiato, cioè i nord europei quel mercato lo presidiano. E ma oggi perché se il porto di Genova volesse prendere qualcuno lì che è quello con la prossimità mia non può? È soggetto a regole di amministrazione pubblica, per la base, sulla base del quale non può pensare di assumere tre commerciali da mettere a Zug, a Berna e a Basilea, non può farlo. Cioè, ragazzi, cari ascoltatori, vi è chiaro perché poi i porti nord europei, cioè non è che Amsterdam ha solo vinto lei, ma in realtà la cosa fondamentale dell'economia di quel paese sta nei porti, ma il problema è che loro non ce l'hanno questi vincoli, noi ce li diamo da soli. Il porto di Anversa, quando ha visto che la Cina stava diventando il mercato, non un mercato, ha preso e ha investito in un terminal in Cina. Esatto. E quindi ha una pipeline diretta con quel mercato. Noi il porto non può uscire dalle cinta murarie portuali per fare un metro quadrato di investimento, e questo è chiaramente un limite. Allora riprendiamo, perché adesso c'è l'informazione sulle strade, con la domanda però poi dopo al presidente Monti. Ma è possibile mai che la politica di fronte a questo, banale esempio, un esempio banale, ma per far capire a chi è a casa, la politica di fronte a questo dice no, è giusto così, non dovete assumerlo? Io non riesco a capire che tipo di risposte può dare a un presidente o amministratori locali che ponessero questo banale esempio la politica per dire no, è più giusto che voi non possiate farlo. La risposta però tra un minuto, intanto strade. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornate in diretta. Allora, presidente Monti, ma mi dica, ma quando un politico uno dice ma come, io se voglio fare l'interporto lì devo, ho bisogno di due o tre presenze professionali adeguate eccetera, le assumo perché questo sarà un progetto su cui per anni dovrò investire, non è che... E come fa il politico a dirvi no, è meglio che tu non possa farlo? Ma il politico poi è soggetto al burocrate. Ah, ecco. Qui c'è una piramide che è rovesciata, dottore. Bisogna che il grande imbroglio, prima o dopo imbroglio tra virgolette, prima o dopo esca fuori nella sua completezza, nella sua totalità, perché il meccanismo qual è? Il meccanismo burocratico è quello di dire togliamo gli strumenti ai manager capaci. Perché? Perché le Olimpiadi di Roma ne sono l'esempio, non facciamo le Olimpiadi perché siamo corrotti. Lo stesso qui, togliamo gli strumenti perché? Perché in passato abbiamo sbagliato, perché in passato è vero che il sistema portuale italiano in passato ha moltiplicato risorse vanamente dissipate, che c'era troppa, ha le sue colpe. Allora al politico diciamo di scegliere le persone giuste. È solo questo che bisogna fare. Scegliamo i manager giusti, non togliamo gli strumenti ai manager, perché è un errore madornale. Non abbassiamo gli stipendi dei manager, perché la macchina pubblica per essere gestita ha bisogno di persone capaci e che dimostrino di essere capaci e che non siano soltanto capaci di scrivere l'articolo X in croce con l'articolo Y. Mi scusi, perché altrimenti, ripeto, da questo loop non riusciamo più ad uscire. Il presidente Duci prima ha fotografato in maniera esatta quello che ogni giorno noi viviamo sul campo. Se io oggi sono a Palermo e ho trovato un porto che è rimasto al 1960, ha potenzialità per incrociare la domanda croceristica, io non posso assumere nell'immediato le risorse che mi servono, perché devo andare avanti con delle procedure che sono, non le dico, farraginose e che daranno vita a ricorsi. Non posso. Questo per spiegare a chi è a casa, che come vedete la questione posta da Totti per Genova però ha una sua generalità di declinazione in limiti profondi che riguardano la gestione manageriale in competizione e anche in concorrenza del sistema, pur dopo la riforma e pur riconosciuti i meriti della riforma. Per esempio è ovvio che chi non conosce come funziona l'operatività di un porto non abbia idea della centralità, lo chiedo di nuovo al presidente Duci, per esempio, di una figura, ne parlavamo prima a proposito di un porto che adesso si trova in una fase ascendente del suo ciclo, cioè Trieste, però ecco, la gente non ha idea che poi sì, c'è il presidente, ma per esempio il segretario generale di un porto o ha un'impostazione manageriale oppure poi purtroppo si vedono risultati negativi. Insomma, il porto di Trieste ne è un esempio, lì abbiamo un combinato di presidente e segretario generale che conoscono il mestiere e lo stanno mettendo sul campo in maniera completa, e noi ci ritroviamo con all'inizio di quest'anno i belgi che si presentano al più grande forum internazionale sulla logistica a Rotterdam e dicono: signori, vi siete accorti che da aprile è più conveniente con Trieste, la nuova riorganizzazione delle linee, passare da Trieste per servire la Cina piuttosto che venire in Nord Europa? Loro se ne sono accorti prima, ma hanno anche messo in atto la risposta prima. E quindi noi Trieste ha fatto un ottimo lavoro, la riorganizzazione delle compagnie internazionali ci ha messo nelle condizioni di poter sfruttare appieno questa nostra posizione geografica. Ma il punto è Monti, che in realtà poi una delle classiche lamentele italiane che non attiriamo abbastanza investimenti diretti esteri e così via, però per quello che riguarda i porti non è vero, perché i porti in questi anni hanno visto una presenza e un attivismo di grandi gruppi internazionali, Maersk, di cinesi e così via, che non aveva precedenti. Cioè gli stranieri ci hanno creduto più di noi o no? Assolutamente, la dimostrazione nei numeri e nei fatti. Dopo la legge 84, la tanto vituperata legge 84 del 1994, quindi parliamo di 23 anni fa, effettivamente c'è stata un'apertura al mercato. I grandi gruppi hanno cominciato a scoprire e ad investire nei nostri porti, quindi hanno creduto prima di noi che il nostro paese potesse rappresentare un elemento vitale a servizio del centro Europa. Tanto per parlare e rimanere, nel termine di merci, in termini di Genova e di Trieste. Non servire solo al mercato nazionale, ma portare la guerra a chi è stato più bravo di noi a pensare prima come farla. Prima pensavamo di una cosa: io sono Milano, amo Milano, amo pur essendo torinese, ma insomma voglio dire, l'eccellenza c'è. Però che i tedeschi siano stati bravi, tra virgolette, a mettere le catene nella catena globale del valore della logistica e mettere quelli tedeschi sulle imprese milanesi è un fatto storico, purtroppo. ed è una triste realtà. Ed è una triste realtà. Forse sì. l'abbiamo compresa con qualche qualche anno di ritardo, decennio di ritardo. Senta, io a questo punto faccio una domanda al mio collega che ne sa molto più di me di questo, eccetera. Bruno Dardani, che cosa si può immaginare che siano i tempi e quali interventi, visto che non ti sfugge la situazione politica è quella che è, rispetto ai temi sollevati da Toti per quello che riguarda la politica, la Liguria, Genova, da Pasqualino Monti, che ci ha fatto capire e toccare con mano i limiti che ha oggi comunque un presidente, sia pure dopo la riforma, e il presidente della Federgente, che ci ha fatto capire insomma che il contesto internazionale è bello agguerrito e quindi il tempo non gioca per noi. Ma cosa si può aspettare davvero che avvenga, secondo te, Bruno? Oscar, hai usato una parola magica: tempi. I nostri tempi non esistono. Se noi prevediamo che per implementare e mettere a regime un organismo che dovrebbe pianificare tutta la portualità italiana, è passato oltre un anno e questo organismo non esiste. In questo anno o anno e mezzo, da 15 grandi gruppi di trasporto container, probabilmente ne vedremo 7, 6 entro pochi mesi. Perché c'è un consolidamento in atto, cioè nel mondo ovviamente, che non aspetta tempo. Ecco, io ti ringrazio di essere stato realista e nel ringraziare ovviamente Pasquino Monti, Gianenzo Duci, Bruno Dardani e prima Gianni Totti. Speriamo di avervi, sia pur non appassionandovi, lo so, sono temi un po', però guardate, questa è una grande battaglia italiana, la politica sbaglia a non capirlo e sbaglia l'Italia a avere purtroppo porti in città che non contano molto nella politica italiana, perché questo è purtroppo l'aspetto che ha frenato una discussione seria come quella che altri paesi europei hanno fatto, facendoci, perdonatemi il culo, un termine che non dovrei usare, ma di questo si parla. Appuntamento naturalmente domani mattina alle 8:15 con me e Luca Tresi alle 24 mattina, e poi domani come tutti i pomeriggi qua la versione di Oscar. Continuate su Radio 24.